Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 74. Una serata, come potrete ascoltare, ricca di buon blues, diversificato come sempre, interessante, stimolante e con molte pubblicazioni proprio fresche, addirittura proprio di questi primi mesi del 2015. Quindi iniziamo subito con un gruppo che si presenta per la prima volta nei nostri programmi. Si tratta di Lil Ed and the Blues Imperials, che proprio nel 2014 hanno pubblicato il CD intitolato The Best Of dalla Alligator Records. Un bel CD che fa un po' la storia di questa band, che in realtà non è molto conosciuta e che quindi meritava, insomma, un'attenzione particolare. Il pezzo che ho scelto per voi è intitolato Check My Baby's Oil, un pezzo originale. Lil Ed and the Blues Imperials. Buon ascolto. Somebody's sticking their dipstick in oil paint. I gotta check my baby's oil. Somebody's sticking their dipstick in oil paint. Man. I gotta check my baby's fluids. Her transmission seems to be moving real slow. Fluids. Her transmission seemed to be moving real slow. I got a throttle wide open. Still that little girl just don't seem to wanna go. I went to check my baby's oil, and somebody had tampered with her gas lock. And the added tears I found in there, almost made me break out in shock. I gotta check my baby's oil. Somebody's sticking their dipstick in oil paint. Try me again. she might think that she's funny, and she might think that she's real slick. But what I'm gonna give that little girl, no mechanic can fix. I'm gonna check my baby's oil. Cause somebody's sticking their dipstick in oil paint. She's going out with another man. Un valido artista, Lee Led, che insieme ai suoi Blues Imperials è il protagonista di questo The Best Of, un CD pubblicato dalla Alligator Records che ripercorre un po' la già vasta carriera di questo ottimo bluesman, che se non sbaglio ha un anno meno di me, dovrebbe avere 60 anni precisi. E Lee Led ci ha fatto ascoltare questa sua composizione originale intitolata Check My Baby Soil, tratto appunto da questo bel CD pubblicato nel 2014, che mette in evidenza la sua grinta, la sua forza espressiva, il suo blues solido. Adesso una vecchia conoscenza dei miei programmi, non solo di Blues Fires, ma qualche anno fa anche di Anima Jazz, l'altro mio programma dedicato tutto al jazz. Si tratta del gruppo Blues Element, che stasera ci farà ascoltare l'ultima fatica discografica, il loro ultimo disco intitolato Halfway, dal quale noi ci potremo ascoltare questo bel pezzo intitolato The Love Contest. Buon ascolto quindi con Blues Element. Me and my baby had a love contest. Yeah, me and my baby had a love contest. 'Cause we E questa era la musica del gruppo Blues Element, un gruppo che parte da una formazione di duo, inizialmente era solo un duo che poi si è allargato e ogni pubblicazione discografica ha degli ospiti, ha dei musicisti che si integrano al duo di base. Il duo di base è formato da Jamie Browning alla voce e Ian Green alla batteria. In questo CD intitolato Halfway Home, il nuovo CD del gruppo, abbiamo anche in alcuni pezzi Alec Fraser al basso, Michael Kitt alla chitarra e Michael Fonfara al pianoforte. In questo caso sono presenti tutte e tre in questo pezzo The Love Contest, che è un pezzo scritto da Rosemary McCoy e Charlie Singleton, uno dei pezzi più blues di questo CD, che ha anche altri colori, altre atmosfere. Blues Element dal nuovo CD Halfway Home. Bene, e adesso andiamo avanti ascoltandoci un po' di blues. Stavo dicendo di jazz perché io sono diviso tra il jazz e il blues e la mia vita quotidiana, insieme alle arti visive, quello di ascoltare e vivere il jazz e il blues. Dicevo, un altro pezzo blues, e in questo caso blues italiano. Si tratta di un artista italiano che si chiama Tito Blues, con la sua band ha realizzato un CD che si intitola Big City Jail. Un artista che ho avuto il piacere di ascoltare più volte nei festival blues toscani, che ho sempre stimato moltissimo e che ho sempre apprezzato in ogni sua espressione musicale, perché ho sempre avvertito in lui, non solo in lui, non è che gli altri siano fasulli e lui sia l'unico sincero, ma ho sempre avvertito in lui una particolare energia dettata proprio dalla sincerità espressiva, come se la sua musica nascesse veramente di pancia e di cuore tutte le volte che si esibisce. Tito Blues Band che in questo CD è formato da Gabriele Tito Capaccioni alla chitarra e alla voce, Alessandro Zibo De Maio al basso, Riccardo Focacci alla batteria. Poi ci sono degli ospiti, in alcune tracce di questo CD abbiamo Gianni Apicella alla batteria e il bravo e conosciuto Paolo Piwi Durante all'organo, sempre in alcune tracce. Stasera io ho selezionato per voi un pezzo che è poi quello che dà il titolo al CD, Big City Jail. È una composizione originale di Gabriele Tito Capaccioni, quindi buon ascolto. In questo pezzo è presente anche all'organo il nostro Paolo Piwi Durante. When I was a young boy, and I don't really care about myself, searching for the happiness, looking for a piece of cake. Policeman arrives in a little nasty Spanish square, catching a lot of people, taking also me. Why me? Why me? Why they're bringing me with I run around? Somebody help me, somebody help me please. I was looking for a big time, but they threw me down the bottom of a big city jail. Big city jail. Big city jail. Somebody help me please. somebody help me please. Now I'm all alone, thinking about my friends and family. Don't know what I'm gonna do, don't know if I'll meet again. Someone tell me, is Jack, makes you cry and cry again. You're a real fool, man, if you think that I will understand. Why me, why me? Why they bringing me with I run around? Somebody help me, somebody help me, please. I was looking for a big time, but they threw me down the bottom of a big city jail. I'm a big city jail. I'm a big city jail. Somebody help me, please. Somebody help me, please. Help me please. Bene, questo era la musica di Tito Blues Band, il protagonista e il leader del gruppo Gabriele Tito Capaccioni, la chitarra e la voce, l'avete sentito, ottimo in entrambi i campi, sia come chitarrista sia come vocalist, riesce sempre a coinvolgere, ad esprimersi al meglio. E molto valida anche la band, formata da Alessandro Zibu De Maio al basso, Riccardo Focacci alla batteria e poi avevamo anche Paolo Piwi Durante all'organo Hammond. Il pezzo era una composizione originale, un valore aggiunto al lavoro di Tito per questo fatto di poter anche scrivere e quindi di aggiungere alle belle interpretazioni, ai belli arrangiamenti che sono presenti in questo interessante disco, anche delle composizioni originali che ci fanno quindi conoscere meglio l'anima di questo musicista. Big City Jail è il titolo di questo pezzo e anche il titolo del CD, Tito Blues Band. E adesso ritorniamo all'estero. Ci ritorniamo con un tipico one man band, anche nel suo nome d'arte c'è parte di questa sua caratteristica musicale, strumentale. One Man Johnson. One Man Johnson lo potremo ascoltare dal CD House Dog Music Presence in One Kind Favor. Buon ascolto quindi con la tradizione blues di One Man Johnson. Well, there's one kind favor I ask of you. One kind favor I will ask of you. One kind favor I'll ask of you. Won't you see that my grave is kept clean? solid ground. Did you ever hear a coffin sound? Did you ever hear a coffin sound? Did you ever hear a coffin sound? To meet another poor boy is headed for the ground. Church bell moan. Did you ever hear a church bell moan? Did you ever hear a church bell moan? Meet another poor girl that's standing home alone. Favor I will ask of you. One kind favor I will ask of you. One kind favor I will ask of you. Won't you see my grave is kept clean? Bene, questa era la musica del bluesman One Man Johnson. Il CD era intitolato House Dog Music Presence e noi ci siamo ascoltati una sua composizione originale intitolata One Kind Favor. Il CD, come dire, ripercorre un po' le tappe musicali di questo artista e nello stesso tempo mette in evidenza, insomma, le sue caratteristiche che non sono poi così tanto scontate rispetto al blues della grande tradizione. Ci sono delle sonorità che appartengono in modo particolare a questo personaggio piuttosto singolare, One Man Johnson. Adesso andiamo avanti con un altro artista che si chiama Paul McManus e che si presenta in Anima Jazz con il CD From South to South Blues and Boogie. Da questo CD noi ci potremo ascoltare una sua composizione originale intitolata I Wanna Live My Way. Buon ascolto quindi con Paul McManus. Milk and honey, I wanna live my way. I've been sleeping very few to go to the parties to stay with you. I let you drive my car and you look like a superstar. I wanna live my way. Yes, I wanna. Questo era il chitarrista e vocalist Paul McManus, che dal CD From South to South Blues and Boogie ci ha fatto ascoltare questo pezzo, una composizione originale intitolata I Wanna Live My Way. un CD interessante, stimolante, perché come dice il titolo alterna dei pezzi blues e dei pezzi con l'accento sul boogie, per cui diventa anche divertente l'ascolto proprio per la diversità, per l'alternativa dei ritmi e delle ambientazioni. Paul McManus dal CD From South to South, Blues and Boogie. E adesso ci ascolteremo un artista che si presenta per la prima volta in Anima Jazz e che ha realizzato proprio in questi primi sei mesi un CD intitolato Black Dog. Si tratta di Rusty McCarty, che potremo ascoltare in una sua composizione originale intitolata We Can Move On. Rusty McCarty dal CD Black Dog. Sunlight is fading, at the end of the day, when the sunlight is gone, yeah. you are the only one. Our day will come, yeah, baby, and we can move on. Yeah, yeah. Un'atmosfera interessante, intensa, con questa bella voce forte nello stesso tempo squillante di Rusty McCarty. Questo era il pezzo We Can Move On, una composizione originale di Rusty McCarty tratta dal CD Black Dog, un CD che è uscito proprio quest'anno con dei pezzi con dei bellissimi arrangiamenti, delle belle atmosfere, a volte anche con riferimenti jazzy piuttosto intriganti. Rusty McCarty dal CD Black Dog. Adesso proseguiamo con Romy Mayes. Romy Mayes, che dal CD Devil on Both Shoulders, pubblicato anche questo proprio quest'anno, ci farà ascoltare la sua composizione originale intitolata Bee Sting. Buon ascolto con Romy Mayes. Thank you. Bene, questa era la bella voce di Romy Mayes. Romy Mayes, che l'abbiamo ascoltata in Beasting, tratta dal CD Devil on Both Shoulders, pubblicato proprio quest'anno, nel 2015. Romy Mayes è una cantante blues che però attinge anche all'ambiente musicale del folk, del country, e riesce a fondere insieme queste istanze con grande naturalezza, con grande scioltezza, offrendo sempre delle belle performance di ottima qualità, veramente un'ottima cantante. Dopo Romy Mayes continuiamo con una band che si presenta anche questa come altre per la prima volta nei miei programmi. Si tratta del Sam Myers and the Blues Blasters. Hanno realizzato nel 2005 un live che si intitola proprio Live in Sweden, dal quale noi ci potremo ascoltare Young Fashioned Ways. Buon ascolto con la band di Sam Myers and the Blues Blasters. Going on. guys might want to raise, but an old one holds so long. Queste erano le particolari sonorità blues rock di Sam Myers and the Blues Blasters, la voce roca quasi ormai al limite di Sam Myers, bruciatissima questa voce di Sam Myers, e la particolarità forte, vivace, espressiva del blues rock dei Blues Blasters, che in questo live intitolato Young Fashioned Ways ci ha fatto ascoltare un pezzo dei più interessanti di questo CD pubblicato nel 2005 intitolato Live in Sweden, che ferma questo momento particolare di energia vissuto in Svezia dal gruppo. Adesso, ultimo pezzo della serata, sono a proporcelo i bluesmen della band italiana, della RG Band. Si tratta di un live anche in questo caso, il CD è intitolato appunto Live at Teatro del Pane, e da questo bel CD che mantiene vive le energie del live ci potremo ascoltare una bellissima interpretazione di Nadine, RG Band. Buon ascolto. Trying to get him where she said, I'm campaigning, shouting like a song. got something else to do. Downtown searching for a looking all around, so I getting in a yellow cab heading uptown. Stop a load of cabs to pay for everybody's step. With a $20 bill, I said, catch the yellow cab. Nanny, baby, is that you? Got something else to do. Ebbene, questa era la RG Band, che l'abbiamo ascoltata nella versione dell'ultimo CD intitolato Live at Teatro del Pane, un live molto interessante, ricco di belle energie, con un pubblico che si sente molto partecipe, che ha caricato la band al massimo. RG Band sta per Riccardo Grosso Band. Riccardo Grosso alla voce e all'armonica, l'avete ascoltato, una bella grinta, un bel timbro e ottimo armonicista. Stefano Pagotto alla chitarra, valido anche lui. Massimo Fantinelli e Andrea De Marchi, Massimo Fantinelli al basso e Andrea De Marchi alla batteria, fanno una sezione ritmica sempre molto presente, molto complice dei progetti della band. Sicuramente un bel CD questo live, che mette in evidenza quanto sia anche valido il buon blues italiano. Il pezzo che ci siamo ascoltati era Nadine. La presenza dell'RG Band, così come quella che abbiamo avuto in questa puntata del Tito Blues Band, mi ricorda di ricordare quanto siamo interessati al buon blues italiano per promuoverli in Blues Fires. E quindi tutte le band, tutti i bluesmen, tutte le blues girl che sono all'ascolto, che hanno almeno una pubblicazione discografica e che sono interessati a essere promossi in Blues Fires, possono inviarmi il loro materiale discografico sul sito di Anima Jazz, animajazz.eu. Trovate la mail, e poi ci sono su Facebook due miei profili personali come Bruno Pollacci, e poi c'è il profilo dei miei tre programmi, e cioè la pagina, scusate, dei miei tre programmi, Anima Jazz, Blues Fires e il Dubidubidoo, il festival radiofonico delle voci jazz italiane. E poi c'è anche il gruppo sempre di tutte e tre i miei programmi, e quindi è facile contattarmi. Sicuramente sono molto interessato a tutto il buon blues italiano da poter far conoscere anche all'estero tramite la mia trasmissione. Con questo pezzo della RG Band si conclude anche questa 74esima puntata di Blues Fires. L'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci da Blues Fires.